Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Olga. Ben ritrovati e ben ritrovate su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio che, come ogni sabato, per l'appunto vi conduce all'interno della storia e delle pubblicazioni di storia, o che parlano comunque di storia. Questo fine settimana, anche questa volta, un libro, una storia da approfondire e un libro che troveremo presto anche a Bologna, con cui avremo l'occasione di chiacchierare con l'autore. Di cosa stiamo parlando questo fine settimana, Olga? Stiamo parlando di Paolo Pasi, che è un giornalista e scrittore, lavora nella redazione del TG3, che ha scritto questo libro bellissimo che si chiama Antifascisti senza patria, edito da Eleutera nel 2018, ma... Frey, chi sono questi antifascisti senza patria del titolo? Allora, è una storia complessa, interessante, che vale la pena di approfondire. Sono quegli antifascisti che erano confidati a Ventotene, quella che è stata un po' la scuola di formazione della nostra Repubblica, perché ci sono passati tanti personaggi, sì. Per non citare che due nomi, Umberto Spinelli e Sandro Pertini, ecco, quindi non due personaggi a caso, ma questi personaggi di cui si occupa Antifascisti senza patria di Paolo Pasi sono personaggi che in un certo senso sono passati più inosservati dal punto di vista della storia, perché sono stati antifascisti e anarchici, antifascisti stranieri che alla caduta di Mussolini e poi soprattutto all'8 settembre non vennero liberati da Ventotene, come invece auspicava Sandro Pertini, che in questo libro scopriamo essere un uomo, un antifascista dalla tempra veramente eccezionale, che era disposto a rinunciare alla sua liberazione pur di veder liberati tutti i prigionieri politici, tutti i confinati. Fatto sta che questi antifascisti non vengono liberati, ma vengono inviati a Rinici d'Anghiari, un campo di concentramento rivolto a individui pericolosi, quindi anarchici, comunisti e antifascisti stranieri, che il nuovo regime non giudicava passibili di liberazione. Ecco, esatto, praticamente dopo l'8 settembre diciamo che la vita quotidiana di Ventotene si spacca. Il libro è pieno di dettagli nel farci capire come si vive a Ventotene. Per esempio, una cosa che noi non sapevamo è che c'erano delle mense nel piccolo borgo dove i confinati non potevano uscire, e queste mense erano divise per partiti. Quindi c'era la mensa che si chiamava Europa con Altero Spinelli, c'era la mensa degli anarchici, c'era la mensa dei comunisti, e ognuno mangiava davvero nella sua mensa. Poi però c'era la vita comune nei cameroni, nelle grandi camerate, c'erano restrizioni importanti, per esempio potevano scrivere non più di 24 righe. E quando scrivevano le lettere non era detto che queste lettere sarebbero uscite da Ventotene. Per fortuna nostra molte sono uscite e noi siamo in grado di leggerle e di ricostruire la storia. Dopo l'8 settembre questa prigionia, che per alcuni è di pochi mesi, per altri di molti anni, e il libro ce lo mostra bene, viene spaccata, il gruppo viene spaccato, perché da un lato, come diceva Jacopo, Pertini e i comunisti vengono liberati, dall'altro però gli anarchici e i sovversivi senza patria, appunto, c'erano molti slavi, c'erano alcuni spagnoli, c'erano persone dell'ex Jugoslavia, vengono portati in un altro campo di concentramento. E questa è una storia che è un po' sfumata, perché non si sa, tutti alla fine sanno che cos'è Ventotene, ma non sappiamo che cos'è Rinici d'Anghiari. Queste persone vengono portate da Ventotene, quindi dall'isola alla terraferma, fino alla provincia di Arezzo. E qui che succede? Succede che c'è una nuova prigionia, c'è un nuovo viaggio duro, che è un viaggio che molti attendevano da tanti anni di ritoccare anche banalmente la terraferma, ma un viaggio che li conduce per l'appunto verso una nuova prigionia e in alcuni casi verso la morte e in altri invece verso una partecipazione all'esperienza della resistenza. Ecco, fra poco avremo ai nostri microfoni l'autore Paolo Pasi, che ci racconterà di questo libro. Piccola parentesi, prima ho detto Umberto Spinelli, Altiero Spinelli, quindi mi scuso con gli ascoltatori e con la memoria di questo grande europeista. Ma un altro particolare per cui suggeriamo calorosamente la lettura di questo libro è il fatto che ad accompagnare queste storie ci sono dei bellissimi disegni, delle bellissime illustrazioni, dei ritratti di questi antifascisti a cui riusciamo a dare un volto dopo averne letto le parole ricostruite da Paolo Pasi, e sono le illustrazioni di Fabio Santin, un illustratore anarchico di Venezia che ha avuto modo di illustrare e di scrivere nei suoi lavori molti ritratti di anarchici, e anche che si è occupato negli anni molto anche di fumetto ed è uno dei curatori della rivista A Parte. Adesso andiamo un po' in musica e poi ci sentiamo insieme a Paolo Pasi, autore di Antifascisti senza patria, edito da Eleutera nel 2018. Misez nos peurs, misez nos cœurs, well, well. Lorsque tout le monde ment, on reste vigilant. Visez nos cœurs, well. En entendant leurs mots et tout leur faux débat, j'aimerais voir disparaître tous les échos d'un temps où l'on marchait au pas. Que l'on voit renaître, on a tous le même passé. Pourquoi vouloir l'effacer, ce qui peut nous menacer? Que l'histoire se répète. So what? Le système nous néglige, nous flatte. Leurs discours, leurs manières sont à droite. Ils n'ont plus à se cacher, ils attaquent. So what? Ils s'infilent sur la toile, ils abattent les déçus, les parias, ceux qui craquent. Banalisent leurs paroles de réac. Le fascisme n'est plus vulgaire. Le racisme du nouvel air se travestit pour nous plaire. Même l'espoir devient précaire. Veille d'une révolte populaire pour que l'on y voit plus clair. Extrême droite, on ne te croit pas. Sur notre drapeau, trois couleurs et un grand A. Résistant, on le sera. Et pour la paix, le même combat. Yeah. En entendant leurs mots et tout leur faux débat, j'aimerais voir disparaître tous les échos d'un temps où l'on marchait au pas. Que l'on voit renaître. On a tous le même passé. Pourquoi vouloir l'effacer? Ce qui peut nous menacer. Que l'histoire se répète. Faites tomber les masques et les barrières. Arnaquer les masses et leur business, on le sait. Devant nous, vos victoires sont défaites. Vivre un jour demain, tomberont vos têtes en effet. Allez-vous-en, vous et vos morales. On n'a pas les mêmes armes si ce n'est le micro. On s'adresse à la foule en versant des larmes. Ta seule vérité, semez le chaos. Allez-vous-en, vous et votre idéal. Qu'attendez-vous de nous, quel est le propos? Invraisemblable, tu n'es pas le diable, tu n'es qu'un facho. En entendant leurs mots et tout leur faux débat, j'aimerais voir disparaître tous les échos d'un temps où l'on marchait au pas. Que l'on voit renaître, qu'on a tous le même passé. Pourquoi vouloir l'effacer, ce qui peut nous menacer? Que l'histoire se répète. Misez nos peurs, misez nos cœurs, well, well. Visez nos cœurs. Entre l'officiel et la version du complot, mais comment choisir? Utilise ton cerveau. Quand tu prêtes à penser qui circule sur les réseaux, oh, oh, et tout sonne faux. Toujours populiste, y'a plus des magots. Inscrit sur ta liste, que des collabos. Il faut qu'on résiste. Face à l'assaut, et je mesure mes mots. Que des beaux semblants, mais dis-moi ce qu'ils nous préparent, tu sais. Tout ce qu'ils nous ont dit est fait, reste intolérant, va seulement ce qui nous sépare en vrai. Tout ce qu'ils nous sépare en vrai. Que des beaux semblants, mais dis-moi ce qu'ils nous préparent, tu sais. Tout ce qu'ils nous ont dit est fait, reste intolérant, va seulement ce qui nous sépare en vrai. Tout ce qui nous sépare en vrai. En entendant leurs mots et tout leur faux débat, j'aimerais voir disparaître tous les échos d'un temps où l'on marchait au pas. Que l'on voit renaître. On a tous le même passé. Pourquoi vouloir l'effacer? Ce qui peut nous menacer. Que l'histoire se répète. En entendant leurs mots et tout leur faux débat, tous les échos d'un temps où l'on marchait au pas. Ils ne font que ressasser, ne vivent que dans le passé. Ce qui peut nous menacer, que l'histoire se répète. Ah. Allora, torniamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko e come vi avevamo già annunciato nell'introduzione abbiamo un gradito ospite, Paolo Pasi, che ha scritto Antifascisti senza patria per Eleutera nel 2018. Ciao Paolo, grazie davvero per essere con noi. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Senti, io partirei subito perché l'abbiamo già detto nell'introduzione, ma io consiglio assolutamente questo libro perché è bellissimo. Ti ringrazio. Davvero, io l'ho letto davvero in un viaggio da Bologna a Pescara in treno, cioè, quindi per 3 ore è stato veramente fulminante. Ma siccome non siamo storici, in realtà ti volevamo fare delle domande più che sulla storia, più che sul romanzo, e ti volevamo chiedere come hai fatto proprio per le fonti a ricostruire la vita quotidiana a Ventotene. Cioè, non è scontato, ecco, per un libro. Diciamo che la prigionia, l'esperienza del confino, che era nient'altro che una prigionia, una tortura ovattata, no? L'ha definita Alberto Colini, che era uno scrittore, uno dei protagonisti, diciamo, di questa storia. La prigionia portava molte persone a ingannare questa attesa, questa noia che cercava di svuotare proprio gli antifascisti. Attraverso lo scrivere, attraverso delle testimonianze scritte, era proibito scrivere, ma poi in realtà le lettere sono uscite da tanti confinati, prima tra tutte quelle di Ernesto Rossi, ma di tanti altri. Alberto Iacometti, che era socialista, amico e compagno di Pertini, ha lasciato una bellissima testimonianza proprio in un libro chiamato Ventotene, così come tanti altri confinati. Fonti dirette, diciamo, quindi da parte dei diretti interessati, sostanzialmente sono 11 principali protagonisti di questa storia, di un gruppo di 165, però anche fonti, diciamo, tramandate, perché anche parenti, persone che hanno ricevuto, diciamo, in eredità la memoria preziosa di queste persone, hanno poi potuto raccontare e darmi del materiale che è stato fondamentale, insomma, per ricostruire le ore di questo viaggio, perché e anche questo tipo di prigionia, perché tu parlavi. Mi piace questa idea che tu abbia scoperto questo libro durante un viaggio. Per me è stato un viaggio. Nasce da un viaggio, nasce da una deviazione di percorso, come ho detto, scrivo nell'introduzione, e nasce dalla scoperta, durante proprio un tragitto dalla Riviera Romagnola alla Toscana in estate, di questo campo di concentramento vicino a una trentina di chilometri da Arezzo, cioè Renici d'Anghiari, dove vennero portati gli ex confinati anarchici o, tra virgolette, irregolari, non conformi, dopo la caduta di Mussolini. Cioè, nonostante la caduta del fascismo, e a differenza della gran parte dei confinati, questo gruppo di confinati antifascisti senza patria venne portato e deportato in un campo di concentramento dove trovarono 3.500 prigionieri di guerra slavi. Per cui nasce da un viaggio, è un viaggio, e racconto anche di un viaggio dal luogo del confino fino ad arrivare dopo 3 giorni di treno e i rischi di bombardamenti continui, perché l'Italia era ancora in guerra, si arriva a questo campo di concentramento. Per cui anche la testimonianza del viaggio, ne cito una su tutte, Alfonso Failla, anarchico della prima e antifascista della prima ora, lasciò proprio un racconto di questo trasferimento da Ventotene a Renici. È stato il punto di inizio di questa ricerca. Ecco, guarda, hai citato un nome importante che magari è molto familiare a chi frequenta la storia del movimento anarchico, come quello di Alfonso Failla. Nel libro ci sono tanti personaggi, alcuni più noti, diciamo, come anche Sandro Pertini, che tu fai parlare e che emerge anche come una figura di antifascista veramente molto, molto forte. Ma ti volevo chiedere, ci puoi presentare qualcun altro dei personaggi a cui hai dato voce? Ah, guarda, ci sono tante esperienze toccanti nella memoria di questi personaggi. Mi viene in mente, per esempio, Jaime Rebassa, un catalano perseguitato e ricercato, tra l'altro, dai franchisti dopo la presa del potere di Franco e dei falangisti. Veniva dall'isola di Maiorca. Pensa a questa vicenda incredibile, no? Pensate che Jaime Rebassa, insieme a 8 maiorchini antifranchisti, costretti alla clandestinità per 3 anni per sfuggire a una fucilazione, decisero poi di prendere un barcone e di partire alla volta delle coste nordafricane, cioè un viaggio da migranti alla rovescia, verrebbe da dire oggi. Vennero intercettati per una varia al motore da una nave militare italiana e portati a Regina Coeli per un anno e poi dopo a Ventotene. Queste persone quindi non avevano nulla a che vedere con il contesto in cui matura l'antifascismo italiano, si trovarono poi a condividere al confino, questa dura esperienza di prigionia e li mise in contatto tra di loro. Chaim Rebasa è una delle otto persone che si trovava a Ventotene dopo la caduta di Mussolini, e la sua è una vicenda davvero molto struggente per certi versi. 54 anni, 3 figli che non vedeva da tantissimi anni, esiliato in un paese che non era il suo, ovviamente, che era dunque lontano anche dalla storia, ma per un'attività sostanzialmente identica, cioè quella di antifascista. Poi c'è la storia di Alberto Polini, uno scrittore futurista che a 62 anni era stato confinato per quello che aveva scritto, nient'altro che per quello che aveva scritto e stava lavorando in quel periodo a un libro che sarebbe uscito poi nel 1944, che io sono riuscito ad avere una copia. Il pupazzo macabro si intitolava questo libro, riferito a Mussolini e a quello che avrebbe dovuto, secondo Colini, fare l'Italia per evitare gli errori che hanno portato al fascismo. Era uno scrittore molto profetico e assai poco conosciuto, molte delle sue opere vennero distrutte proprio per il suo antifascismo. E poi ci sono gli anarchici più conosciuti, Tommasini, Alfonso Failla, Enrico Zambonini, che si era preso una fucilata sulle barricate di Barcellona negli scontri con gli stalinisti. C'è anche questo, diciamo, che emerge, no, nell'esperienza dei confinati, che c'era una profonda spaccatura tra gli anarchici e i comunisti per i trascorsi nella guerra civile, e che quanto accadde dopo scavò ulteriori distanze, perché molti dei comunisti vennero liberati dopo la caduta di Mussolini e gli anarchici no, per cui ci fu un risentimento in qualche modo, ma questa frattura si sanò proprio con alcuni confinati stranieri che pure appartenevano, diciamo, alla componente comunista, con i quali si saldò un tentativo, poi un accordo per cercare di organizzare una fuga o un'evasione da questo campo di concentramento. Ecco Paolo, senti, tu hai nominato giustamente i protagonisti più o meno del libro, che sì, sono tanti, ma io ti volevo chiedere due parole su una protagonista in realtà, sì, che è Emilia Bonacosa, che è l'unica donna, guarda, che... che c'è. Stavo nel... pensando mentre... Esatto, sì, esatto. Come hai scoperto la sua storia? Che ruolo ha in realtà? Se ci sono altre donne che tu hai incontrato nelle ricerche? Sì. Allora, consideriamo che a Ventotene le donne erano nettamente inferiori come numero, no, rispetto ai confinati. Avevano un camerone in cui c'erano, non so, c'erano alcune dissidenti antifasciste, quindi dei confinate politiche, anche altre donne che erano state confinate per delle vendette familiari. Cioè, un gerarca fascista ha fatto confinare la moglie e la figlia perché voleva togliersele dai piedi. C'era una persona che era stata mandata solo perché accusata, testuali parole dall'archivio, di essere andata a letto con un negro, tanto per dirne, no? Questo si legge nell'archivio dei confinati ventotene. Emilia Bonacosa era un'anarchica, una donna che a 18 anni aveva subito un gravissimo infortunio sul lavoro ed era stata asportata una parte di cuoio cappellito, e io negli archivi consultati a Ventotene mi sono imbattuto in una lettera che mi ha fatto decidere proprio di approfondire molto di più la storia di Emilia Bonacosa. Cioè, questa lettera, sostanzialmente, lei chiedeva a Mussolini una nuova parrucca, e io con delle parole di grande dignità, però, cioè, era come se in quel momento questa persona rivendicasse, nonostante la prigionia, il confino, il diritto alla dignità, no, personale. E con grande piglio, diciamo, questa donna chiedeva una parrucca. Poi c'erano anche dei referti medici che parlavano però anche di un grave stato depressivo di Emilia Bonacosa. Io ho contattato una storica locale che mi ha dato veramente tanto in termini di materiale su per ricostruire la vicenda umana e politica di Emilia Bonacosa, che era sostanzialmente una libertina ante litteram, una libertaria, ma anche una persona descritta più che come libertaria, come libertina, perché definita di facili costumi, aveva invece un approccio assai moderno, diciamo. Era ovviamente sposata a un anarchico che morì dopo pochi anni ed ebbe una vita sentimentale, diciamo, un po' turbolenta, ma era libera da ogni pregiudizio, sostanzialmente, da ogni schema mentale, per come io l'ho conosciuta attraverso il carteggio, le lettere e i racconti di chi poi ne ha un po' ripercorso la biografia. Lei era originaria di Nocera Inferiore, quindi io ho conosciuto Nunzia Gargano, che è una storica che mi ha aiutato proprio a ricostruire la sua vita, e l'ho intrecciata ovviamente alle vicende di altri personaggi lei non venne deportata a Renici, ma in un campo vicino a Frosinone, Fraschette da Latri, che era l'equivalente femminile di quello che è stato, diciamo, di quella è stata la vergogna del campo tutto badogliano italiano di Renici d'Anghiari. Senti, Paolo, un'ultima domanda volevo chiederti. Allora, questo è il secondo libro che dedichi, sì, alla storia dei ribelli e alla storia, anche alla storia del movimento, sì, anarchico. Il primo, ricordiamo, ha ucciso un principio, poi hai anche, sì, scritto altre cose. C'è stato un cambiamento nel tuo percorso di scrittura e di racconto della storia? Beh, diciamo che quello che cambia sostanzialmente, sì, la risposta è sì. C'è perché è diversa la modalità del racconto. Nel romanzo puro chiaramente lo spunto narrativo prevale, cioè hai maggiori ambiti di immaginazione. In questi casi invece delle cosiddette docu-fiction, cioè quando si parte da fatti realmente accaduti, l'immaginazione non deve essere una chiave per forzare l'elemento storico, è semplicemente una risorsa per colmare gli omissis che ci sono. Cioè, soprattutto nel caso di Bresci, di cui è sparito tantissimo materiale, per cui negli archivi si sa poco nulla. Quando devi ricorrere alla tecnica del dialogo nello scrivere una storia, è chiaro che devi un po' inventare, no? Ma deve esserci qualcosa di verosimile. Tant'è che quello che una delle cose che mi ha fatto più piacere, diciamo, tra i commenti raccolti, la figlia Aurora Failla, di Alfonso Failla, e anche Paolo Finzi, che è stato, diciamo, il genero di Failla, che è direttore della rivista Anarchica, mi hanno detto: guarda, è come se tu lo avessi conosciuto. Cioè, quello che traspare dalle lettere traspare, diciamo, fa capire anche qualcosa del carattere di una persona, del suo modo magari di interagire con altre persone. E c'è questa componente. Poi ti dico, il terreno, cioè anche nel Sabotatore di Campane, che è uscito qualche anno prima di Bresci, che è pubblicato con Spartaco, sono partiti dall'idea un po' di raccontare le vicende poco conosciute della storia del movimento anarchico libertario dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, no? E anche in questo caso ovviamente una storia non può mai forzare i fatti. Preferisco dire una storia romanzata, diciamo, perché io poi distinto parlo di romanzo, ma i fatti realmente accaduti sono la base fondamentale, e ho cercato proprio di non forzare con la fantasia nulla di quanto accaduto, utilizzando sempre ovviamente poi la terza persona per raccontare queste persone, per avere anche il rispetto della loro memoria. Diciamo, le storie sepolte in qualche modo nell'oblio dalla storia con la S maiuscola, secondo me, che valeva la pena invece fare conoscere e riportare in superficie. Bene Paolo, io ti ringrazio e grazie a voi anche per avermi supportato nella parlantina, perché no, volevamo ricordare anche che a fine novembre tu hai un appuntamento a Bologna, sì, giusto? Quando? Io il 23 di novembre, venerdì, avrò un appuntamento credo dopo cena, quindi intorno alle 20:30-21, dagli amici, diciamo, del Circolo Berneri di Bologna. Esatto. E dovrei essere poi il giorno successivo, il 24, anche a Cesena, al magazzino, però sicuramente a Bologna sono il 23 venerdì. E noi sicuramente ci vediamo lì. Esatto, appuntamento piacere per tutti e tutti al Circolo Anarchico Berneri, ecco, di Piazza di Porta Santo Stefano 1, allora. Circolo Anarchico Berneri, e se mi posso permettere di aggiungere una cosa, certo, ci sarà anche una parte musicale, perché il canto e la musica svolgono un ruolo importante nel cimentare poi nel libro i contatti tra le varie componenti di questo campo di concentramento, quindi si canterà anche, porterò anche una chitarra, diciamo. Bene, benissimo. Bene. Grazie. Grazie mille. Ciao. Bene, rientriamo in studio, ringraziamo ancora Paolo Pasi, Antifascisti Senza Patria, rilanciamo l'appuntamento di venerdì 23 novembre con la presentazione presso il Circolo Anarchico Berneri di Piazza di Porta Santo Stefano 1, in grosso modo alle 8:30, aperitivo e presentazione, con cui avremo l'opportunità di incontrare l'autore e di ascoltare di nuovo direttamente la sua voce, la presentazione del libro. Passiamo adesso a una serie di appuntamenti. Sì, allora, mentre parliamo noi, sono 2:30, c'è ancora il Festival della Letteratura Sociale a BAG, in via Paolo Fabbri, che si chiama Contrattacco. Contrattacco, un bellissimo appuntamento. Stasera verrà presentato, fra le altre cose, il nuovo romanzo di Wu Ming, quindi c'è una certa curiosità nell'aria, però ci sono sicuramente molti belli appuntamenti. Esatto, un altro appuntamento da tenere in mente per la settimana prossima è il 16 novembre, Ritmo Lento in via San Carlo c'è la presentazione del primo numero di Jacobin Italia sulla mancanza della sinistra in Italia. Quindi belli appuntamenti per parlare sulla latitanza, diciamo, esatto. Non sulla sinistra. Belli appuntamenti per parlare di opposizione sociale e politica. Il vostro appuntamento con la storia torna sabato prossimo, sempre alle ore 14, sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM, online sul nostro sito www.radioballoon.info. E per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey e Olga. Ciao!